pezzi di merda. E qua? Qua mi dai di nuovo la musica? Perché ci riprovo. Basta. Ma che siete matti? Sti pezzi di merda, peso 52 kg, ma che non lo vedete? Sti bastardi, se so accaniti, se so... E intanto parlo mentre mi levo i guantoni. Sì. Se so accaniti, se so. M'hanno massacrato, m'hanno sfigurato. E manco mia madre mi riconosce. Che io dici te a mia madre? No. Prima mi viene in mente e poi ci vado proprio. Quindi m'hanno massacrato, m'hanno sfigurato. Che manco mia madre mi riconosce. Che io dici te a mia madre? Io dici te. Intanto mi vado a sedere. Sti pezzi di merda. 31 anni c'avevo una vita davanti. Sti bastardi m'hanno massacrato. E qua comincio a salire. Ve l'ho pure detto. C'ho l'anemia, la celiachia, l'epilessia, zanco d'altre forme che altre cose. E poi scendo. 52 kg pesavo. Sti bastardi se sono accaniti. Se sono accaniti sti pezzi di merda. E qua? Silenzio. Una mattina sono venuti i carabinieri a casa e gli hanno detto a mia madre: signora, dovrebbe firmare un foglio. E qui vado al centro. Un foglio. Che foglio devo firmare? La nomina del medico legale per l'autopsia di suo figlio. Com'è l'autopsia? Sì, signor. Suo figlio è deceduto stamattina all'alba. Così gliel'hanno detto a mia madre, che ero morto. Vai. Allora, adesso procediamo all'interrogatorio. Intanto mi dice il nome, il cognome, dove e quando è nato. Ma le cose... Buongiorno, sono Cucchi Stefano, nato a Roma il 1 ottobre 1978. È scappato tanto bene. Dove risiede? Risiede a Roma, 10 Corbino 55 00 176 Roma. Allora, che via? Via Ciro da Urbino? 55 00 176. Lavora? Lavoro con mio padre. Sì. È coniugato a figli? No, sono celibe. Ha precedenti? Sì, non per droga, però ho altri precedenti. Se verrà scarcerato, dove vuole che arrivino gli atti di questo processo? Presso l'avvocato o presso un altro indirizzo? Presso il mio nuovo avvocato. Presso l'avvocato. Io no, sì, lo no, vorrei nominare un avvocato. È umida l'aria qua di sera. Le luci sono ancora spente e attorno l'aria è scura scura. Le luci si accendono tardi di notte a Torpignattara. Odora di muffa, mica di lavanda. Non mi piace il dosonnato. Questo però non l'ho detto mai. Ah no, sì, solo a mia madre una volta, ma stavo incazzata in un bare. A mio padre no, non gliel'ho detto mai. E il cane mio piscia sempre sotto lo stesso albero. Mi sa che è in pino, ma io di alberi non ci capisco niente. E il cane mio piscia e sotto la terra si fa granulosa, come se fosse sabbia. Ma mica è sabbia, è terra. Che pure che sto fatta la differenza si vede. Pare sabbia, però si vede che è terra. Vai. La prima cosa mi dichiaro dossier ricondente. Sì. Allora, da questo momento in poi lei ha la facoltà di non rispondere, ma anche se non risponde il processo proseguirà il suo corso. Se risponde le sue dichiarazioni potranno essere usate contro di lei. Però... però mi piacerebbe mo averci davanti al mare. Mi piacerebbe andare a far bagna Ostia, col cane mio che mi guarda, che un po' si butta in acqua e un po' c'ha paura. Mi piacerebbe portarmi nipote al parco, vederlo andare su e giù sull'altalena. Mi piacerebbe sentirmi chiamare, zio, zio, che mi compri? Che ne so, che mi compri? Che voglio i ragazzini? E il gelato? Zio, che mi compri il gelato? E certo che te lo compro. Mi piacerebbe che si avvicinasse una ragazza, che mi dicesse che è figlio tuo. Io gli direi no, ne famo uno io e te. Mi piacerebbe che mi dicesse di sì, però mi piacerebbe pure se mi desse un ceffone, perché sono stato indelicato. Ammazza però, quanto era bella. Mi piacerebbe chiudere un grillo in un barattolo, come facevo quando ero pischello, vederlo che si dimena, che gli manca l'aria, e poi liberarlo all'ultimo momento, vedere i zombie che fa, che torna libero. Mi piacerebbe andare allo stadio, mi piacerebbe che vincesse la Lazio. Mi piacerebbe portare un regalo a mio padre e dirgli scusa pa, per tutto quello che ti ho fatto passare, per le cazzate che ho fatto. Mi piacerebbe tornarci dentro a sto parco, coi capelli bianchi a dada mangiare i colombi come un coglione. Mi piacerebbe venire qua a dada mangiare i colombi come un coglione. Mi piacerebbe diventare vecchio. Allora, io sono seguito al set di Torpignattano, e però diciamo che il metadone lo compro. Che metadone? Lo compro. Invece mi mozzico le labbra, mi mozzico e mi si stringe il cuore, che mi tremano le mani e i piedi, mi tremano le gambe, anzi, una gamba sola, mi ficco sotto al lenzuolo di sto letto d'ospedale, di sto letto d'ospedale di merda. Odora di muffa, pure qua, di chimico, di medicinale, di sudore stantio, di panni sporchi, di cane bagnato, mamma! Ma, mamma piglia, mi sono fatto piccolo, piccolo, mi sono consumato, ma, pigliami in braccio, però quando entri, devi chiudere gli occhi, fa finta che è una sorpresa che non puoi vedere. Abba, falle chiudere gli occhi a mamma quando mi venite a pigliare, che non mi deve vedere così. Io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio, mi dichiaro invece colpevole per quanto riguarda la detenzione. Ferma, me sono scordato una cosa, me sono scordato, che ce devo fare? Che ce posso fare? Non c'ho del tempo. E il tempo non ci sta mai, perché se ti mettono fretta, poi ti scordi le cose. Che se me lo dicevano, mi sarei messo a cantare una canzone. Così, per fare matto. Ma la canzone mo non mi viene. Mi servirebbe un po' di tempo che ci dovrei pensare. Però mi sono ricordato una poesia, ma non mi piace. Non la capisco, mo mi pare che non l'ho mai capita. Quando non ti serve più te la ricordi sta merda di poesia, mo che mi fa male tutto, che mi so consumato sotto ste lenzuola, non vorrei proprio niente, e mi fa perdere solo tempo. Vai. Sono stato seguito da Villa Marini, dal CES e dal... eccolo che non c'avevo più a questi posti. Adesso non ci va più regolarmente. No, non sono più segnato, certo, anche se ho l'esenzione. È stato segnato? Fino all'anno scorso. Ho ancora l'esenzione della tossicodipendenza e dell'epilessia, perché soffro di epilessia. Vabbè, poi c'ho pure la celiachia e altre forme di cose. Arcane mio, ma chi ce pensa? Chi ce pensa, mo, arcane mio? Diteglielo a mia sorella che ci deve pensare a lei. Per forza ci deve pensare a lei. Ilà, scusa, te volevo rompere i coglioni proprio a te che c'ho un marito e due figli. Scusami, Ilà, scusa. Non me sto a lamentare, me sto zitto, però che cazzo. Ho detto basta, mi fate male. 31 anni c'avevo, ma siete matti? Ma sono pure anemico, c'ho la celiachia, l'epilessia, un sacco di altre forme de cose. Aspetta che mi sono ricordato una canzone. Come faceva... Mo' pa' canto, eh? Come faceva... Credetemi a... È vero, credetemi accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù, d'un tratto

ed è la bolla di sapone, l'astuccio trasparente d'un sospiro, uscita dalla canna, vola in giro, spallottolato senza direzione, per farsi cumulà, come che sia dell'aria stessa che la porta via. Una farfalla bianca, un certo giorno, nervede quella palla cristallina che rispecchiava come una vetrina tutta la roba che ci aveva intorno, gli annette incontro e gli gridò: sorella, fammi te rimirà quanto sei bella, il cielo, il mare, l'alberi, i fiori, pare che t'accompagnino nel volo, e mentre rubi in un momento solo tutte le luci e tutti i colori, te godi il mondo e te ne vai tranquilla nel sole che sbrilluccica e sfavilla. Rispose: so bella, sì, ma duro troppo poco. La vita mia, che nasce per un gioco, come la maggior parte delle cose, sta chiusa in una goccia. Tutto quanto finisce in una lacrima di pianto. Altalena che ha perso la sua spinta iniziale. fermate. La musica comincerebbe a scendere, le luci cadono in dissolvenza, si spegnerebbero. Che giorno è oggi? Il sesto giorno questo qua. Non la sopporto più sta puzza di chimico, di sudore stantio. Ti apro la finestra. Vuoi che ti apra la finestra? No, c'ho freddo e sto a morire di freddo. Quanti anni hai? Anche a me sembrano troppo pochi. Vuoi mangiare qualcosa? Almeno assaggia. Non me la. Sei sicuro? Quasi giorno. È l'alba. Allora mi devi fatto favori. Me devi spedire questa e devi telefonarmi cognato. Caro Francesco, sono Alessandro Bertini, stato di arresto. Volevo sapere se puoi fare qualcosa per me. Scusa se oggi sono di poche parole, ma mi fa male tutto e posso muovermi poco. Intanto un saluto a te e agli altri operatori della comunità. Ciao Stefano, PS, per favore almeno rispondi. Sei sicuro che non puoi mangiare niente? Guarda quanto sei magro. Sono magro, non sono magro, sono peso piuma. A me sembri più una piuma senza peso. Ma se c'ho pure il certificato d'esame e robusta costituzione? Ma se il medico quando te l'ha scritto sotto ha aggiunto sport consigliato, lanciatore di riso ai matrimoni? Infatti, tant'è che gli ho detto, dottor, se potrebbe almeno scrivere lanciatore dei coriandoli, perché a me il riso in bianco non mi è mai piaciuto. Sei talmente magro che quando vai al parco sono i colombi che ti buttano il pane. Carina questa. Ah, sapevo pure una, eh. Com'era? Sono talmente magro che quando mi faccio la doccia devo centrare gli schizzi. Oppure un'altra che me la dicevano a scuola. Sei talmente magro che se scureggi te colli. Sono talmente magro che de profilo scompaio. Sono talmente magro che non mi ripiglio manco che la cinepresa. Oppure so talmente magro che mia madre mi ha dovuto fare pantofole di cemento. E quando mi affaccio al barcone, so talmente magro che una volta passavo davanti al cimitero, mi ha visto il guardiano e ha detto: a questo chi l'ha fatto scappare? So talmente magro che l'ombra mia si è andata a fare una cura ricostituente. So talmente magro che le mosche, per starmi addosso, devono fare fila. So talmente magro che quando il medico mi ha visitato pensava che era una radiografia. So talmente magro che quando mi hanno fatto la TAC, la lastra non voleva uscire, va vergogna. So talmente magro che il pavimento di casa mia c'ha una matonella sola. So talmente magro che la bilancia di casa mia c'ha una tacca sola, ma non fa niente, tanto mi vado a pesare dall'orefice. So talmente magro che per la cruna del lago ci passo io sopra il cammello. So talmente magro che quando una volta stavo appoggiato a una macchina e mi hanno scambiato per antenna. So talmente magro che se faccio l'autostop mi scambiano per la paletta delle guardie. So talmente magro che se mi faccio i capelli rossi farò un fiammifero. So talmente magro che se mi tuffo in piscina l'acqua manco si muove. So talmente magro che quando mi abbronzo farò lo spiedino. So talmente magro che se mi abbracci pare che stai a pescare. So talmente magro che se mi fai uno scherzo ridi da solo. So talmente magro che... So talmente magro che c'ho il fisico da sollevatore di polemiche. So talmente magro che se me lancio il cane mi riporta indietro. So talmente magro che quando andavo a scuola e non mi volevo far interrogare, sdraiavo sul banco e facevo finta di essere una matita. So talmente magro che mo che muoio, so io che mi vado a mangiare i vermi. So talmente magro che il pigiama mio c'ha una riga scura. Magari gli piacerebbe andarsi a Che ci pensa, vuor cane suo? Diteglielo alla sorella, diteglielo che ci deve pensare a lei, per forza ci deve pensare a lei, là, scusa, non te voleva rompere i coglioni proprio a te che c'ho un marito e due figli, scusalo, là, scusalo, non sei stato. Ti accorgi di quanto il mondo sia